Vi è mai successo di pensare a qualcosa? Ricordarla se l'avete già fatta? Rivivere quelle vecchie sensazioni oppure immaginare di nuove? E vi è mai capitato che se questo pensiero si prolunga, prima o poi, quella cosa lì accade? Ecco, a me è successo ieri sera. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti, quasi 8, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Pensare a una persona e ricevere una sua chiamata. Immaginare la scena di un film, accendere la TV e trovarlo trasmesso in quel giorno stesso. Crearsi un'immagine e quella si concretizza. O più in generale, pensare che qualcosa possa accadere e quella cosa lì accade. Non sto parlando di telepatia, Forse solo di casualità o di coincidenze. Insomma, io non ci credo all'energia, al paranormale, a tutte quelle cose che non si possono controllare. Credo che qui siamo e quello che accade accade perché siamo qui e da nessun'altra parte. Però a volte capita di riflettere su una cosa e quella cosa lì succede. Non voglio dire che la facciamo succedere, semplicemente quella cosa lì accade per una serie di cause che l'hanno creata. E noi, l'avevamo pensata, l'avevamo sentita, immaginata. Qualcuno le chiama premonizioni. Mi è arrivato un messaggio prima su Facebook. A Marilena è successo così. Un colpo forte sulla parte destra della mia auto, un rumore metallico di lamiere. Lo sentivo chiarissimo da circa un mese. Avevo timore di parlarne, ma alla fine l'ho raccontato ed è scritto ai miei. Dopo un mese stavo guidando, un'auto non rispetta lo stop da destra, mi prende in pieno e mi scaraventa addosso ad una ringhiera, che abbatto con forte rumore metallico. È successo, e ogni tanto lo sento ancora come allora. Questa è Marilena, poi invece c'è qualcuno che è convinto di poter far accadere le cose. Qualcuno che pensa in base a non so cosa ad avere un vero e proprio potere che faccia succedere quelle cose. Nel caso di Francesca, mi ha scritto così. Durante le vacanze di Natale di molti anni fa, in montagna, avevo conosciuto un ragazzo che mi piaceva molto. Sapevo che sarebbe rientrato prima di me a casa sua, ovviamente da tutt'altra parte rispetto a casa mia, e per giorni non ho fatto che pensare a come sarebbe stato se fosse rimasto. Non facevo che sperare giorno e notte che qualche intoppo non gli permettesse il rientro, come un mantra. Insomma, il fatidico giorno della sua partenza, lui e un suo amico partono direzione pianura e al secondo tornante si rompe la scatola del cambio della loro macchina. Loro sono tornati su integri e un po' storditi. Io ovviamente ho esultato come una mongolfiera ai miei poteri di fattucchiera. Ecco, non so voi da che parte stiate, ma se state da una di queste due parti, io sono qui. E il numero è sempre quello, è sempre 800240024 349-238-6666. Qualcuno mi ha scritto sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, che queste cose hanno un nome, che si chiamano profezie che si autoavverano. Sono spesso simili al paradosso della predestinazione, nel quale una persona viaggia indietro nel tempo per prevenire un evento, ma finisce per causarlo. Questi due fenomeni differiscono comunque in un punto chiave. Una profezia che si autoavvera sia quando una persona convinta del verificarsi di eventi futuri altera il suo comportamento in un modo che finisce per causare tali eventi. 800240024 per telefonare in diretta oppure 349-238-6666 per mandare un sms. Magari vi è successo di recente, magari vi è successo ieri o questa mattina. Io veramente non ho idea di cosa sia. A me è successo ieri, però delle volte capita. Uno pensa intensamente a qualcosa, ma non che pensa perché si mette lì e come quello che piegava i cucchiaini li piega, come si chiamava quello là? Uri Geller. Non come Uri Geller, proprio che semplicemente un pensiero ti sfiora e quando te ne accorgi che qualcosa è successa ti rendi conto che ci avevi pensato, allora fai 2 più 2 e dici che strano. Poi ci sono quelli che pensano ad avere poteri da streghe, soprattutto un po', appartiene un po' alle donne questa cosa di sentirsi, che si sentono tutte un po' streghe, gli uomini un po' meno. Però se vi è successa una cosa di questo tipo di recente, oggi è una puntata un po' paranormale. 800240024, come mi scrive ad esempio ecco, vedi, Bianca subito ci fa il caso. Dove va la nostra attenzione, là scorre la nostra energia. Emanuele, perdonatemi, nel suo manuale Sheldrake, o Sheldrake, che però ricorda un po' Mandrake, quindi spero che sia Sheldrake, sostiene che capacità umane non ancora spiegate come la telepatia, la sensazione di essere osservati e la premonizione non siano paranormali, siano normali e fanno parte della nostra natura biologica, anche se abbiamo in parte perduto o trascurato questi aspetti del nostro patrimonio evolutivo. Lui cerca di dimostrarlo da anni attraverso una rigorosa ricerca scientifica. I risultati, boh, mi scrive Emanuele. Emanuele, com'è che sei così preparato? Poi non conosci i risultati. Liliana, ho comprato un gratta e vinci e non lo faccio mai perché ero convinta di vincere. Portate a casa 100 euro. Luisa, ogni pomeriggio, tornando a casa nella mia casa di campagna, al buio con i bambini, mi dicevo: pensa se arrivo e trovo la casa aperta dai ladri. Io da solo qui con i bambini, cosa faccio? Devo tenerli accanto a me e andarmene a stare calma. È successo esattamente quello che immaginavo. Da allora immagino con molta concentrazione che in fondo si possa vincere la Superenalotto, e questo è un altro paio di maniche. Un altro esempio, Laura mi scrive: a me capita di pensare a una persona che non sento da tempo e poi quella persona mi chiama, non so come si chiami, tutto questo ambaradam, premonizione, non ho idea, però il numero è sempre quello, 80024 0024. Grazie a Viola che mi scrive: Rupert Sheldrake, che è ancora vivo, è un biologo e saggista britannico, noto soprattutto per la sua controversa teoria sulla casualità formativa, che implica un universo non meccanicistico governato da leggi che sono esse stesse soggette a cambiamenti. Grazie Viola, grazie a Rupert Sheldrake. Ora vi racconto esattamente che cosa mi è successo ieri, quando ho pensato attentamente a una cosa e quella cosa è successa. Vi sarà successo, no? Di pensare a qualcosa, ma non intendo dire che la mente sfiora il pensiero, no, parlo proprio di pensare intensamente a una cosa. Ad esempio, se l'avete già fatta, ricordarla, oppure rivivere tutte quelle sensazioni, o immaginarle di nuove. E vi è capitato, no? Che se questo pensiero si prolunga, prima o poi quella cosa lì accade. Ecco, così, esattamente, ieri sera. Quando sono stato a teatro con Natalie, lei si è molto incuriosita. Le ho detto che quella è una parte della mia vita che non mi appartiene più, che quasi mi sembra accaduta secoli fa. E lei mi ha risposto che proprio per quello la interessa. E mentre ne parlavamo l'altro giorno, mi sono ricordato del secondo anno di scuola di teatro e dell'episodio che ricordo come sogno solo gnomi nani. Mi spiego. Il corso di voce non si teneva nella scuola, in accademia, le stanze erano troppo piccole. Le lezioni si svolgevano in un'aula del Circolo Filologico di Milano, in pieno centro. Un luogo austero, fatto di scale in marmo, con rivano in legno intarsiato. Oltre a conferenze e presentazioni di libri, le principali attività di quel circolo erano la lettura dei quotidiani da parte degli anziani soci e le lezioni nelle aule prese in affitto dall'Università Statale di Milano. Noi arrivavamo in questo luogo di studio di lettere a metà mattina, agghindati alla maniera preferita dai giovani attori. Anzi, dai giovani aspiranti attori. Giacche sformate, pantaloni di tela e sciarpa in lana fatta a mano per gli uomini. Cappotti vecchi, gonne colorate e sciarpa in lana fatta a mano per le donne. Tutti con una borsa di tela che teneva il necessario per la lezione, tuta e calzettoni. Niente scarpe, ovviamente, perché le scarpe da ginnastica impediscono il contatto del corpo con il pavimento. Dopo un paio di settimane, anche il signore all'ingresso aveva smesso di chiederci come poteva esserci utile. Ci aveva fatto l'abitudine o semplicemente aveva visto la ricevuta di pagamento dell'affitto che la scuola pagava per l'aula al terzo piano. Le tre ore iniziavano sempre con degli esercizi di rilassamento. Sdraiati a terra, occhi rigorosamente chiusi, ascoltavamo le parole dell'insegnante che con la sua voce più suadente che avesse ci guidava verso i territori di relax sconosciuto, che per molti fondamentalmente culminavano sempre in una grossa dormita. Prendete contatto con il vostro respiro, ascoltate ogni minima parte del corpo sdraiata sul pavimento. Adesso passate in rassegna ogni muscolo, cercando di scioglierlo, dai piedi alla punta della testa. Inutile dire che io pensavo ai fatti miei per la maggior parte del tempo. Più interessanti invece erano gli esercizi di rilassamento in coppia. Ecco, in quel caso era importantissimo scegliersi in tempo utile una compagna per non rimanere magari spaiato oppure doversi accontentare di Marcello, Fabio o peggio ancora dell'insegnante. Mettere le mani addosso a una ragazza regalava sempre un bel quarto d'ora ad un ventenne della provincia come me. Più difficile era quando le mani addosso te le metteva lei. Per impedire strani imbarazzi io mi impegnavo nei ragionamenti più cupi e disperati, tipo la nonna in punto di morte, la lite col padre per la bolletta del telefono, il giorno in cui avevo sepolto il mio cane. Questa commistione di corpi e rilassamento porgeva però il destro a molti spunti di divertimento, soprattutto se di mezzo c'era un nostro compagno che si chiamava Marcello. Marcello è sdraiato, agli occhi chiusi. È rilassato, o così finge di essere. A rilassarlo oggi tocca a Silvia, la veneta, quella corpulenta e verace. Il massaggio comincia seguendo le tappe usuali, una mano sul ventre e l'altra che a partire dai piedi esercita una leggera pressione su tutto il corpo. Ecco, Marcello è uno di quelli che, nella vita, a scuola, nel lavoro, è uno di quelli ligi al dovere. Cioè, se lui deve rilassarsi, si rilassa. Anche se sente una mano che si appoggia dolcemente sul suo corpo. Tutto ciò però non ha nulla di rilassante, soprattutto se quella mano non è più quella di Silvia. Perché nel frattempo è diventata quella di Fabio, che dopo aver portato l'indice sulla punta del naso in segno di silenzio, ha fatto segno a Silvia di spostarsi e ne ha preso il posto. Ecco, ancora oggi io credo che Marcello pensi che quel giorno una compagna di accademia abbia voluto farlo rilassare con una cosa simile a del petting spinto attraverso i pantaloni della sua tuta By American. Ecco, Marcello, te lo dico. Mi dispiace. Goodness belongs to those hard working dogs that run down their field without pity, without pity. Tutto questo però quantomeno avviene in maniera silenziosa. Ciò che invece ahimè non avviene per nulla nel silenzio rispettoso, che un circolo filologico richiederebbe, è il processo di liberazione dei chakra. Allora, i chakra, qualunque cosa essi siano, sono sparsi in 3 o 4, forse 5 punti diversi del nostro corpo. Il collo, lo sterno, la zona lombare e il pubio, ovviamente. I chakra sono chiusi, anzi, più che chiusi, i chakra sono serrati. La convinzione della nostra insegnante di voce era che questo fosse un male, ovviamente, perché i chakra devono aprirsi, devono liberare energia. Ricordo ancora che mentre lo spiegava lei si muoveva tutta sinuosa, come una danzatrice del ventre con la sciatica, dicendo che attraverso l'apertura dei chakra, che sono delle vere e proprie valvole energetiche, si sarebbe liberata una forza tale da fare scaturire delle voci dall'intensità e dalle qualità che noi non avevamo mai sentito prima. Aveva terminato la sua dimostrazione sdraiata a terra in preda degli spasmi epilettici emettendo dei suoni da posseduta. Solo che finita la dimostrazione, toccava a noi. Quindi anch'io iniziai a liberarmi dei miei chakra, o quantomeno ad agire nella maniera che assomigliasse il più possibile a quella pratica lì. Come al solito, i più avvantaggiati erano quelli che ci credevano davvero. Ed erano immediatamente riconoscibili perché tenevano gli occhi chiaramente chiusi. Quelli che fugacemente aprivano gli occhi e incrociavano il tuo sguardo, invece, erano tuoi alleati. Eravamo pochi, ma avevamo dalla nostra l'incognito. Solo noi sapevamo chi eravamo e pregustavamo il momento in cui fuori da lì avremmo commentato quello che avevano visto con i nostri occhi, giusto? Solo che quel giorno il materiale per il commento post lezione, arrivò dall'esterno. Vi ho già raccontato una storia simile, e questa è un'altra. Dunque, l'insegnante ci sta invitando a muoverci come se fossimo degli uccelli pronti a spiccare il volo, tenendo i piedi uniti e flettendo le ginocchia. Dobbiamo muovere le braccia con ampi movimenti di ali, ok, quindi la situazione è questa. Concentratevi, 12, anzi no, 13 con l'insegnante persone che sono in cerchio e che si fingono dei gabbiani pronti a balzare dal loro nido e liberarsi per l'aria. Ma non ci fermiamo lì, perché secondo l'insegnante questo movimento, che è finalmente quello ideale per liberare i chakra e liberare le nostre voci, deve avere qualcosa in più, cioè le voci dobbiamo liberarle. Come, ovviamente? Dicendo qualcosa. Facendo dei versi di Aquile? Ovviamente no, sarebbe troppo facile. Noi dobbiamo dire una frase, che manca a dirlo, è la frase giusta per liberare la voce dei chakra. E la frase è questa qui. Sogno solo gnomi nani. Ovviamente dobbiamo scandire bene la sillabazione. La frase non significa niente, chiaramente, però nel giro di pochi secondi 13 bipedi pseudovolati cominciano ad urlare sogno solo gnomi nani. In quel momento però il tempo si è fermato. Si è fermato quando la porta dell'aula si è aperta, svelando al mondo esterno il segreto che noi covavamo nell'intimità della nostra aula. E il segreto era che eravamo degli imbecilli. Io riuscii solo a capire qualche parola uscita dalla bocca della docente di russo della facoltà di lingue che stava tenendo la lezione nell'aula a fianco. Qualcosa tipo, scusate, ma noi stiamo facendo lezione. Evidentemente lei tra i versi di Pushkin aveva cominciato a sentire gridare sogno solo gnomi nani. Chi non sarebbe andato a vedere che cosa stava accadendo, ma soprattutto che cosa cavolo volesse dire quella frase. Lei bofonchiò qualcosa tipo: non riesco a spiegare ai miei alunni, c'è troppo rumore. Per piacere, stiamo facendo lezione. Ci aveva offerto una scialuppa di salvataggio. Se ci fossi salito, forse ora parlerei russo. Succede proprio così, che pensi, ripensi a qualcosa, lo ricordi, lo racconti alla tua fidanzata che ti dice che le piacerebbe vederti ancora fare quella cosa lì. Pensi, ripensi a qualcosa, rifletti sul fatto che in fondo per quasi 10 anni quel mestiere lì l'hai fatto e che se l'hai fatto un motivo ci sarà stato. Pensi, ci ripensi e mentre lo fai succede che quello che pensi entra nella tua vita. Suona il telefono e un regista con cui hai lavorato anni fa ti dice che fa uno spettacolo nuovo e ha pensato a te per una parte. Ciao Matteo, proprio oggi ho telefonato ad una pista da Bob per poter provare l'esperienza incredibile a Destini Incrociati. Hanno parlato proprio di Bob. Ma quello è il potere di Destini Incrociati, perché altrimenti non si incrocerebbero mai i destini. È proprio esattamente quella cosa lì di cui sto parlando. Ho puntato sul 6 alla roulette, l'unica volta che ho giocato e ho vinto. Non ci ho più provato, premonizione, fortuna, non lo so. Ciao Matteo, sono Massimo di Lugano. Ciao Massimo, sono Matteo di Roventino. Ero piccolo, speravo di trovare nell'uovo di Pasqua un'armonica a bocca. Non ne ho fatto parola con nessuno. E nell'uovo c'era un'armonica a bocca di plastica. Mai stato così felice per un regalo. Un fatto incredibile. Ciao, a presto, aspetto tue news. In che senso aspetta le mie news? Massimo, fai così, tu prova a pensarmi. Prima o poi arriverà una news, evidentemente. Tante volte mi succede di canticchiare una canzone, accendo la radio e sento proprio quella lì. Anche questa però non vale, Alberto. È che semplicemente le radio mandano sempre la stessa musica, a parte Radio 24, che ne manda poca o ne manda di buona, perché la sceglie Tiziano Bonini. Manda sempre la stessa e quindi ti viene da canticchiare sempre quella lì. Se ascolti DJ o Capital, finisce così. Ascolta Radio 24. Nella vita ho avuto 3 storie finite. Quando incontro una della ex, spesso incontro le altre 2 la sera prima. Ale, dove vivi? In che paese abiti? Io materializzo le persone, penso a una persona qualsiasi e la incontro dopo poco. Ci provo tutti i giorni con George Clooney, ma non funziona. Baci Sabrina, è brava Sabrina. Andiamo però invece a Roma, andiamo da Francesca. Pronto Francesca? Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, raccontami che cosa ti è successo. Leggendo The Secret. Leggendo, scusami? The Secret. The Secret è un libro, giusto? È un libro. Che parla di questa cosa qua? Parla di questa cosa qua, dei poteri che noi possiamo avere e metterci... Aspetta un attimo, ma io l'ho visto al supermercato sto libro, ho capito qual è? È quello col sigillo rosso con la c'era l'H finta. Esatto. Niente contro i libri venuti al supermercato, Francesca, per l'amor di Dio. No, certo. E a un certo punto, cioè, questo libro ti spiega come metterti in sintonia con l'universo. Ok. Con l'energia che c'è. E a un certo punto c'è un racconto di un ragazzo che vive in America e chiede la dimostrazione che vuole vedere una farfalla nel centro di New York e gli succede. Francesca, scusami, tu hai capito come mettersi in sintonia col mondo, con l'universo leggendo questo libro? Cioè mi ha aiutato. È tutta energia. E io penso che voglio vedere una persona. Uh-huh. E voglio una dimostrazione. La mattina salgo in macchina, c'era il telepass, sì, poggiato sul sedile, sì, che è attaccato allo specchio. Sì. Dopo un'ora ricevo una telefonata, dopo un'ora e mezza io ero in autostrada. Francesca, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. La borsa, giusto? Perché se uno pensa intensamente, la borsa arriva. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. Estoy aquí. Nella foto di oggi siamo al mare, invece. A giudicare dalle scogliere che si vedono in fondo, potremmo essere in Liguria, se siamo in Italia, però anche no, quindi non vado oltre. In primo piano però c'è una tettoia, proprio la parte estrema di una tettoia fatta di legno e coperta con del bambù bruciato dal sole, e sulla tettoia è piazzato un bel gabbiano con il becco rosso, arancione, e le piume bianche e grigie, il cielo è azzurro, il mare è blu, c'è qualche virgola di schiuma sul mare, quindi ci deve essere vento, perché si vede anche dal gabbiano che c'è le piume che ballano un po', e poi perché, come insegnano nelle scuole di vela, i gabbiani si rivolgono sempre con il becco verso la direzione del vento. Peppino Pompò, 47 anni, lungo il sentiero dell'amore alle Cinque Terre, l'attesa di un gabbiano si sparpaglia e si perde in un azzurro meraviglioso. Quell'azzurro è mio, io sono qui. Grazie Peppino, direi un nome, una, insomma, in nomen omen, Peppino Pompò, da come racconta il luogo in cui si trovava. Andate a vedere il profilo di Peppino su Facebook, perché ne vale la pena, è uno dei nostri ascoltatori preferiti, così mi ha detto Tiziano, io in realtà non l'ho ancora visto. Quando gioco a carte, penso alla carta vincente e sistematicamente la pesco dal mazzo, non sto scherzando, ciao Marta. Però Marta, tu sei una donna, quindi sei un po' strega, no? Sai che voi donne siete tutte un po' streghe, io quella cosa la sapevo. Un agosto, fermo in coda a Marsiglia, ho incrociato mio cugino che abita nel nord della Francia. Cesare. Ho capito, ma cosa c'è? Cioè, o sei fuori tema, o non hai capito, oppure manca un pezzo. Cioè, mi dovevi scrivere che un giorno eri fermo in coda e pensavi a tuo cugino e l'hai visto, no? Ho come la sensazione, più di una sensazione, cosa è la certezza? Ho la sensazione che leggerai questo sms. Vabbè, Mirko, ti è andata bene. Fantastico, stamattina mio figlio da Madrid mi ha mandato un link per vedere il film The Secret, mai sentito nominare. E oggi una vostra ascoltatrice nomina il libro, giuro, Carlo da Roma, pensa che fortuna. E poi mi scrivono due messaggi. Dai un'occhiata alla sincronicità di Jung. Si chiama sincronicità e l'ha studiata Jung. Massimo, dopo vado a vederlo. Adesso invece andiamo da Antonio, in provincia di Vicenza. Pronto Antonio? Sì, buonasera Antonio, da Vicenza, sia provincia. Io sono Matteo. Io sono qui, sono in soffitta, perché sono appena sceso per rispondere alla vostra chiamata. Stavo pulendo il camino, mi sono comprato il brico dei bei spazzoloni con una corda su e giù. Antonio, fermati un secondo. Allora, tu innanzitutto che cosa fai nella vita? Io adesso sono pensionato, ho fatto agricoltore, poi sono andato a scuola salariale, ho fatto il ragioniere, ho fatto il servizio urbano, ho fatto tutte. Tutte hai fatto? Quanti anni hai? Adesso stai pulendo il camino, bene, e tu sei qui. Quanti anni hai, Antonio? 67. 67, però hai la voce di un ragazzino. Grazie. E tu hai famiglia, hai moglie, figli? Sposato, due figli, viviamo tutti assieme. Coi figli ancora? Coi figli. Ma quanti anni hanno? 23, 25. Ah, sono giovani. Senti, Antonio, raccontami un po' qual è questa sorta di preveggenza che ti è capitata. Sì, incredibile. A notte ho sognato, quando facevo agricoltore, no? Sì. Ho sognato che nascevano due vitellini. Quando ci siamo alzati il mattino andiamo a trovare due vitellini in stalla, non è mai successo in vita mia, non è mai successo ai miei amici e conoscenti, perché diciamo è un caso. Perché di solito i vitelli nascono da soli, cioè nasce un vitello solo. Nasce un vitello solo, non c'era ancora l'uso, non so se adesso ci sia, di chiamare il veterinario prima per vedere, eccetera. E la mucca è gravida, diciamo, sì. E si aspetta che nasca. Quindi tu hai sognato questa cosa e i vitellini sono nati? Ma tu non hai letto The Secret? No. C'è comunque c'è un'armonia spontanea poco con l'universo in te, Antonio. Scusami, dicevi. Ma ci credo io a questo. Ci credo, insomma. Sì, ho esperienza. Hai un cane che abbaia in sottofondo anche? Sì, è Gioia, si chiama. Gioia? Veramente Gioia, sì. Ma quanti animali hai, Antonio? Niente, uno per sorte. Un cane, un gatto, due uccellini. Okay. Avevo avuto crocetti, sempre un turno di animali. Antonio, senti, io ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto e ti auguro una buona giornata. Ok, stai grazie bene. A voi. Ciao, alla grazie, prossima, grazie. Ciao. Per due settimane avevo paura di cadere, poi è successo, si è piegata una grata sotto di me, 2 metri di caduta e sono illeso. Pronto? Ciao Leonardo, ciao. Io sono qui. Ciao Leonardo. Senti, dove ti trovavi sulla grata che si è piegata? Per la strada, all'angolo di un palazzo. Cioè, quindi stavi camminando? Stavo camminando, era 2 settimane, sì, che sognavo sempre di cadere da qualsiasi posto immaginabile, ponte, montagna, sì, qualsiasi cosa. Sì. Stavo girando un angolo, un cartello era caduto dal vento, giro l'angolo, c'è una grata messa male, sì, era segnalata, e casco giù. Ah, quindi era segnalata però? Era segnalata, ma il cartello era in terra e io ho tirato l'angolo, il cartello non l'ho visto e sono cascato per 2 metri. Ok. Al garage sottostante, in piedi, non mi sono fatto niente. Però te è nata anche bene, Leonardo, grazie mille, buona giornata. Niente, anche a te. Ciao, alla prossima. Andiamo da Armando, a Brescia. Pronto, Armando? Oh, ciao. Ciao, come stai? Bene. Hai il fiatone, Armando? No. Oh. Senti, raccontami, a te capita spesso A me capita spesso di lavorare, mentre sto lavorando so già come andrà a finire il lavoro che sto facendo. Sì. E non è una sorta di preveggenza. Poi ho parlato con un ho avuto l'occasione di parlare con un neurologo, sì, e mi ha detto che il nostro cervello, alla fine, spiegando in maniera semplice, è come se fosse una grande cassettiera. Sì. E i nostri ricordi vengono messi in ordine. Può darsi, ogni tanto i nostri ricordi vengono messi dentro in modo sfasato, cioè che quello che succede dopo viene messo dentro prima di quello, prima di un altro. Quindi allora, Armando, guarda, finalmente mi hai dato una spiegazione scientifica, quindi l'universo e la sintonia con l'universo direi che non c'entra, è una questione che c'entra con il cervello. Non c'entra proprio niente. Ti ringrazio, Armando, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Andiamo all'ultima telefonata, andiamo da Franco a Vicenza. Ciao, Franco. Sì, ciao, mi è successa una cosa strana. Dimmela. Praticamente una fiera di paese, ero con degli amici. Sì. E stavamo camminando perché avevamo lasciato le biciclette e i motorini lontano. Sì. Io circa 700 metri prima di arrivare dove avevo lasciato il motorino, mi sono messo a gridare come un pazzo, mi hanno rubato il motorino. Ma senza vederlo però. Senza vederlo, ero lontano. Sì. E mi sono messo a correre come un matto. I miei amici hanno pensato questo è impazzito. Ho fatto una gran corsa, sono arrivato, infatti mi avevano rubato il motorino. Quindi una premonizione che se avverata mi è successo solo quella volta lì che mi hanno rubato il motorino. E non è che abito a Napoli, insomma, abito su una zona che i furti ce ne sono pochi, insomma. Ecco. Immagino. Franco, senti, tu hai letto The Secret? No. Benissimo, mi basta questo. Buona giornata, grazie Franco. Ciao, ciao, grazie. Ringrazio quelli che hanno chiamato, che non faccio in tempo a sentire per 2 motivi. Primo perché c'è poco tempo e secondo perché voglio leggervi una mail che mi è arrivata qualche giorno fa. Non ha a che fare con la preveggenza, non ha a che fare con la premonizione e soprattutto non ha a che fare con The Secret. Caro Matteo, sono una tua ascoltatrice. Mi chiamo Eleonora e ho 12 anni. Vivo a Parma e ogni giorno che ti ascolto mi chiedo sempre come potresti essere. Se leggi questa lettera alla radio ti potresti descrivere in breve, magari. Non ti ho scritto per un argomento ben preciso, ma solo per vedere se per favore leggeresti questa lettera alla radio. Mi diverto molto con mio padre quando ti ascolto per le tue battute. Quando descrivi le tue giornate riesci, secondo me, a far entrare la gente in quello che stai dicendo, a immedesimarsi in ciò che ti è accaduto. Ti ascolto da quando volevi vendere le tue cose per farti una vita nuova. Sei molto simpatico. Non ti preoccupare, per scriverti e per far leggere la mia lettera in pubblico, ovviamente se lo farai, ma non credo, visto che le leggi solo le cose aderenti al tuo argomento, non preoccuparti, comunque ho il consenso dei miei genitori. Scusa, non mi sono descritta, ho i capelli lunghi, sono castani e ondulati, ho gli occhi marroni, sono di media altezza. Ho 4 animali, 2 cavalli, un cane e un gatto. Se vuoi, e te lo chiedo ancora per favore, se non vuoi leggere la mia lettera alla radio, scrivimi, rispondimi. Per favore, leggi la mia lettera in pubblico, che cosa ti costa? La potresti leggere venerdì 4 febbraio o martedì 8 febbraio. Ti ascolterò sempre, ciao, Eleonora. E invece l'ho letta mercoledì 9 di febbraio, spero che Eleonora l'abbia sentita. C'è però, diciamo, un quesito che corre tra tutta la redazione ed è: Eleonora esisterà oppure no? Le vi leggo un ultimo sms che mi è arrivato che mi dice: Matteo, ancora non ho capito se sei un ex sognatore o lo sei tuttora. Guarda, Miki, a questa domanda credo che potrò risponderti solo dopo aver letto The Secret. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?